Desiderio della patria. Semmai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra, sicché m'ha fatto per molti anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra del bello ovile ov'io dormì agnello, nimico ai lupi che li danno guerra. Con altra voce omai, con altro vello, ritornerò poeta, e in sul fonte del mio battesmo prenderò il cappello. Dante Alighieri.